hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly whose day is but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Ciao a tutti, questo era Leonard Cohen che come al solito ci ricorda di ascoltare. Io sono Lollo Cat e questo è Club Chimera, un programma radio ospitato da Exalge, dedicato ai temi della musica, del suono, dell'ascolto e di tutti i mondi che da questi temi vengono toccati anche tangenzialmente. Oggi abbiamo ospite di nuovo il nostro sociologo Lorenzo Zaffaroni, con un'altra ospite speciale di cui... Ciao! Laura Canella, di cui si parla tra poco. Comunque... storica dell'arte, quindi iniziamo a sociologia, storia dell'arte. E storica figura, ma lo direi tu, della radio. Della radio Exalge. Radio di Exalge. Fondatrice di un movimento. Fondatrice di un movimento, motivo per cui io sono finito qua, motivo per cui Club Chimera è iniziato, quindi grande, grandissima emozione ad avere Laura sono qui con noi. Sono molto onorata di essere qui, infatti. Grazie. Allora, con la presenza di Lorenzo, eccomi, vuol dire che si riprende una sottoserie di Club Chimera. Yes. La sottoserie che abbiamo intitolato Immaginazioni elettroniche e che è dedicata all'esplorazione di vari generi, appunto, della musica elettronica. Siamo a maggio, stagione del toro. Toro è un segno di casa. Uno di quei segni che non vogliono tanto uscire e andare alle feste, ma preferiscono farle in casa, le feste. Mm. E quindi niente di più appropriato perché parlare di musica house. Abbiamo parlato a gennaio della techno. Con la techno siamo a Detroit, ma gli anni sono gli stessi. Dalla fine degli anni 70, tutti gli anni 80 e poi andando avanti. L'house, stessi anni, a Chicago. È un po', ce li siamo immaginati un po' come fratello e sorella, questa techno e questa house. Un po' la techno è il fratello marxista, il fratello cyberpunkettoso, rivoluzionario marxista che yes. Con la mente inventa mondi nuovi. E la house è la sorella queer, sì. Sostanzialmente. Edonista, va alle feste. Foucaultiana. Si fa di un sacco di ecstasy, probabilmente si diverte. Laura, devi trovare tu un aggettivo della storia dell'arte. Della storia dell'arte. Esatto. Allora, no, a me interessa in realtà indagare questa dimensione che voi definite queer, no? Mm-hmm. Perché, allora, premetto che io sono assolutamente ignorante sul tema e che aver parlato con voi e essermi un po' informata per partecipare a questa puntata è stato molto interessante e arricchente. Però un aspetto che avevo capito essere molto importante per la musica house è proprio appunto questa dimensione comunitaria, no? Cioè questa queerness sta anche nel fatto di proporre per la prima volta forse un'idea di musica che principalmente parla più al pubblico che non, cioè come dire, la musica si crea grazie a chi la balla e chi la sente piuttosto che chi la fa. Esatto. E proprio perché siamo anche in Exalge, in questa dimensione così particolare comunitaria, forse vi direi di partire da qui, se vi va, e di raccontare in che senso, anche rispetto appunto alla techno, come si è evoluto questo senso di comunità, no? Questo senso anche di queerness, se possiamo definirlo così. Beh sì, assolutamente, con l'Aus nasce un po' quell'idea che abbiamo ancora oggi del clubbing come forma di comunità, dello stare e del ballare e dell'entrare in relazione e in dinamica attraverso questo ballare. Vi leggo giusto velocemente un passo da Cruising Utopia, libro di José Esteban Muñoz, che in realtà parla più della disco perché lui ha frequentato New York anni 80-90, inizio degli anni 2000, dove era in voga la disco, altre correnti di cui magari parleremo in altre puntate, ma lo stesso discorso è proprio quello là. E Muñoz scrive che la pista, mentre ci apriamo e chiudiamo in relazione ad altre, ci impone uno scambio e un'alterazione dell'esperienza cinestetica attraverso cui diventiamo, in un certo senso, sempre meno simili a noi stesse e sempre più simili le une alle altre. È proprio quello che inizia a succedere con l'house, per cui comunità queer, comunità altre, comunità alternative, si trovano, ballano, parlano di amore tutto il tempo. I testi, dopo ne analizzeremo qualcuno con Lore, i testi tutti di amore, Your Love, Love Can Turn Around, sì. Amore e sesso, amore e sessualità, quindi proprio sì. Lo stare con i corpi in questo spazio che si costruisce per stare bene. E poi anche stare, cioè perché una cosa che avevo anche capito che si differenzia rispetto alla techno è questa idea di comunità, appunto, di stare insieme invece che proiettarsi nel futuro, no? C'era un po' questa tematica di una comunità futuristica, che è quella della techno, no? Di immaginare appunto uno stacco rispetto a quello che si sta vivendo, invece la musica house, forse anche proprio per il tema della casa e della comunità, invece spinge molto sullo stare in quel momento, stare insieme e condividere il presente. È vero. Ieri dicevamo che un po' il trade union della puntata è proprio questa idea che, come dire, la house ha una capacità di creare, ma anche soltanto musicalmente, le condizioni per stare assieme sul dance floor. Ed è uno stare assieme che non produce una voglia di altrove, non è una forma di... Oddio, è anche una forma per contrastare l'alienazione. In questo c'è una cosa in comune con Detroit, ma è uno stare... come poi appunto vedremo, nel presente, nel momento, nel gesto. Quindi sono molto contento di continuare questa... e di farlo qua, che comunque, tra l'altro volevo dire, la citazione di Muñoz, cioè si applica perfettamente a quello che accadrà stasera, dalle 10 in poi, per cui... Anche prima. 9:30, quando saremo qua a ballare, a fonderci le une con le altre. Bellissima in qualche citazione. Modo. E, comunque sì, cioè appunto... Traus e techno sono due modi di comunità marginalizzate, perché non l'abbiamo ancora detto, ma si tratta sempre di comunità afroamericane principalmente. Sono modi di comunità marginalizzate di dire no alla realtà sociale esistente e di immaginare un diverso, un'alternativa. La techno lo fa proiettandosi, come dicevi, verso il futuro, con una creazione di narrative, di discorsi, di immaginari altri. Quasi più, non dico mentale, però una cosa molto narrativa, molto di racconto, mentre l'Aus lo fa stando, come dicevi, nello stare insieme. E, se non abbiamo altri pensieri introduttivi, direi di partire con una piccola storia, una piccola cronologia di quello che è successo in quegli anni a Chicago. Vai. Prima di farlo, quindi, vorrei introdurre con una traccia dell'etichetta discografica Music to Dance To, feat. Julian Mitchell, che è una traccia che ripercorre proprio l'inizio e la continuazione della musica house. Da questa traccia, come vi renderete conto presto, cambieremo subito e passeremo ai Beach Boys, a Don't Make Me Wait, perché come ci racconta all'inizio della traccia che andiamo a ascoltare, in realtà non si può parlare di house senza prima parlare di quello che c'è stato prima a New York, e quindi la disco. Sentiamo, lasciamo spazio alle orecchie e poi arriverà il racconto di questa storia. Now this is what we call a house record. The house music, like all music, was inspired by another style of music. And we call it disco. But disco is more than just music. It is a feeling. It is a movement. Disco is a way of life. Diciamo, dicevamo, per capire l'house dobbiamo prima capire la disco. Con la disco siamo a New York, sono gli anni 70, ci sono le avanguardie. No, ma infatti una cosa che poi vi avrei chiesto è quello che un po' dicevi anche tu prima, no? Io da storica dell'arte posso dire che da un punto di vista artistico è un momento particolare, perché nella post-guerra era già partito tra le prime due guerre e si è protratto poi nel tempo, ma proprio per quello che stava succedendo storicamente l'arte ha scelto di rompere tantissimo con la tradizione che aveva portato fino alla tragedia delle due guerre, no? Mondiali, e quindi è il periodo delle avanguardie artistiche che rompono con tutti i canoni che c'erano stati prima, classici in qualche modo, proponendo anche proprio un ridimensionamento sia da un punto di vista stilistico di come fare arte, sia proprio di ricercare appunto delle dimensioni altre rispetto alla realtà, quindi mm-hmm. il cubismo, l'astrattismo. Poi dagli anni 70-60 in poi, cioè 60-70 in poi, addirittura la ricerca di altre dimensioni, quindi penso all'arte informale, anche all'utilizzo di materiali diversi nell'arte, l'arte povera, no? E quindi c'è tutto un filone di arte che appunto si stacca dalla realtà e che propone anche un'evasione, no? Quindi anche magari il tema delle droghe in questo senso diventa il modo per poter sperimentare tanto su quello che c'è di altro rispetto a quello che stiamo vivendo. Al contrario, come appunto stavamo dicendo prima, mi sembra di poter dire che la musica house invece ritorna molto sul tema della realtà e cerca invece un contatto con È vero. L'essere umano e lo stare insieme in quello che si sta vivendo. Mm-hmm. È vero. E vedremo dopo Vai. E possiamo anche già introdurre che stavamo parlando proprio ieri di come la house, in generale la musica elettronica in quegli anni, che viene appunto da comunità marginalizzate, da un punto di vista ha proprio quella caratteristica dell'avanguardia di andare verso il nuovo, criticare il passato, come diciamo prima, immaginare un altro, però lo fa in un modo diverso forse dalle avanguardie bianche della cultura, viene da dire, tra virgolette, non alta, della cultura intellettuale, dell'elite culturale. Dell'elite culturale. Dicevamo ieri che la cosa interessante, almeno dal dibattito che è nato preparando questa puntata, che è proprio, sono proprio le modalità sia di recupero del passato, cosa che fa anche la disco, adesso ci dirai, ma un recupero del passato è un assemblaggio che non è quello di spazzare via la tradizione precedente, di cercare sempre una rottura con le regole, ma è di, come dire, già le regole per queste comunità non erano, come dire, non erano accessibili, no? Non potevano accedere alla musica mainstream, e quindi vedremo che sia la storia, la tradizione da cui deriva la house, sia le modalità musicali, no? La tecnica con cui si sta fatta, è molto interessante da confrontare con invece l'avanguardia artistica, perché è qualcosa di più dal basso, di più un assemblaggio. Un assemblaggio. Oltretutto non credo che sia un caso che infatti nasca a Chicago invece che a New York, no? Che in quel momento storico era anche la città dell'avanguardia, certo. No? Cioè era anche la città del futuro, come potremmo dire oggi, non so, Los Angeles, sì, no? Sì, e invece Chicago in questo senso era ancora una dimensione dove forse l'underground e un po' quel mondo lì avessero ancora spazio di esserci e di essere cool, sì, in qualche, sì, modo. Anche, no? Anche se in realtà New York in qualche modo era già successo prima con la disco. Quindi facciamo un attimo di contesto. Allora, la disco nasce come musica nera, anche lei, prende da elementi del funk, da elementi del jazz e va a costruire tutta un modo diverso di stare insieme e di ballare e di esperire la musica. Un modo come viene poi ripreso dall'house, che mette la comunità, l'amore, lo stare insieme prima dell'individuo. Abbiamo in mente tanti club di New York di quegli anni, magari uno che è conosciuto perché si riferisce anche all'elite culturale nel momento in cui la disco è diventata più mainstream, è lo Studio 54, che veniva frequentato da Andy Warhol, Keith Haring, tutti gli artisti dell'avanguardia che conosciamo. Ci sono poi anche The Gallery, la Soho House, tanti altri club dove veniva ballata la musica disco, soprattutto da comunità marginalizzate. In questi club troviamo per esempio Larry Levan, di cui abbiamo ascoltato fino a poco fa con i Peach Boys, Don't Make Me Wait, che è un grandissimo DJ che lavora molto, come dicevamo prima, con questa tecnica del collage. Proprio nasce la figura del DJ come qualcuno che mette insieme pezzi di musiche diverse senza necessariamente comporre la propria cosa, ma mettendo insieme. Nel frattempo la disco piano piano diventa sempre più famosa, si espande oltre New York, raggiunge tutti gli Stati Uniti, fino ad arrivare, tutti conosciamo, La febbre del sabato sera, per esempio, certo. Film mainstream molto conosciuto da chiunque, basato sulla musica disco. E qui succede, vuoi dire qualcosa? Ah, scusa, avevo visto un... Succede questo... quello di cui si parlava prima, appunto, che New York da diventare una città in cui hanno proliferato tantissime avanguardie, inizia un po' a rappresentare questa cultura mainstream. E come dicevi, invece, a Chicago c'era una sorta di vuoto, c'erano meno club, c'era comunque una cultura musicale incredibile, molto basata sul jazz, molto basata sul funk, quindi comunque una cultura musicale afroamericana. Però a livello di clubbing, di DJ, di underground, non si era ancora creato quel humus culturale, o si stava creando quell'humus culturale che poi ha portato appunto alla house, che è una trasformazione ancora rispetto alla disco di cui abbiamo appena parlato, di New York. Questa cosa inizia a succedere prima attraverso le radio che riprendono la disco e iniziano a smettere di far ascoltare il rock. Quindi, prima di continuare con la storia di come la disco si è traslata a Chicago ed è diventata house, iniziamo già ad ascoltare l'inizio di un programma radio, Friday Night Jams, in cui Frankie Knuckles, un DJ che era prima un DJ disco di New York, ma che poi vedremo si è trasferito a Chicago, ha dato via l'house, quindi iniziamo ad ascoltare uno dei suoi mix per questa radio, per il programma Friday Night Jams. With Friday Night Jams, we are now into the mix with Frankie Knuckles. We're lost in music, we're lost in music. Quindi si diceva, siamo a Chicago, è arrivata la disco, si diffonde nelle radio e iniziano anche a nascere i primi club. Il più famoso, che poi darà il nome al nuovo genere che sorgerà, viene fondato da Robert Robbie Williams nel 1977 ed è il Warehouse. Robbie Williams proprio al Warehouse chiama, è in cerca di un DJ e chiama Frankie Knuckles, di cui stiamo ascoltando ora il mix, che prima era a New York a suonare disco, solo che a New York c'era quest'altra figura, questo Larry Levan, altro DJ importantissimo, e Frankie Knuckles era un po' alla sua, in ombra rispetto a Larry Levan. Poi ieri mi raccontavi anche di un altro motivo. Premessa che abbiamo fatto ieri, noi non crediamo in una, come dire, non vogliamo ricreare una storiografia unica della musica house, però ci sono tantissimi aneddoti nella ricerca che abbiamo fatto, e uno in particolare mi ha colpito perché per contestualizzare dove nasce, come dire, anche a livello di ambito culturale, l'energia e anche l'eros dei party house, è una storia di Frankie Knuckles che racconta appunto come cercasse lavoro e a un certo punto prende contatto con un impresario di un club che aveva appunto, lo aveva addirittura quasi spaventato all'inizio per il livello di energia e di carica che già c'era, no? Quindi abbiamo questa idea di Frankie Knuckles che sta cercando il suo posto, che si confronta con questo, con questa effervescenza, no? Collettiva legata alla disco, che è molto bello rivivere, come dire, in queste storie. Esatto, e Robert Robbie Williams, fa strano dire Robbie Williams che ci sono mille altri nella storia culturale statunitense, invece a Chicago sta aprendo il Warehouse, ha bisogno di un DJ e chiama Frankie Knuckles, che sta cercando il suo posto a New York all'ombra di Larry Levan, dice bella lì, me ne vado a Chicago. Anche interessante perché, come dicevi prima, che non vogliamo fare una storiografia, parliamo di aneddoti, cioè qua è palese che stiamo parlando di ragazzi che avevano sostanzialmente tra i 18 e i 24 anni, che facevano cose come stiamo facendo noi adesso, solo che poi hanno rivoluzionato, certo, la storia della musica. Come d'altronde faremo anche noi. Ma come per dirlo. Stiamo facendo anche noi. Stavo per dirlo. Quando è il nostro volo per Chicago? Tra due ore. Ma poi c'è un evento particolare, no? Esatto, esatto. Che succede, quindi... c'è un evento un po' significativo che mi raccontavate ieri, che succede nel 1979, che segna un po'... Esattamente, anche un evento abbastanza assurdo. A me, io non ero a conoscenza, ma abbastanza sconvolto quando l'ho scoperto. Allora, inizia appunto, non si chiama ancora disco, ma non si chiama ancora house, ma si chiama disco, inizia a diffondersi a Chicago, arriva Frankie Knuckles, si iniziano ad aprire i primi club... Le radio iniziano sempre più frequentemente a mettere in programma disco e quindi selezionare, dare lavoro a DJ che fanno musica disco rispetto al rock, che inizia a perdersi un po'. La gente che fa rock, che sono soprattutto uomini eterosessuali bianchi, al contrario delle persone che andavano a ballare e ascoltavano musica house, che erano sostanzialmente persone... afrodiscendenti, ispaniche, latine o queer, e o queer. Quindi questi, la gente, i DJ rock, i bianchi iniziano a incazzarsi. Questa cosa si unisce al fatto che i Chicago White Sox, squadra di baseball di Chicago, non avevano abbastanza pubblico per... non facevano soldi, non vendevano biglietti nelle loro partite. Tu dici, che c'entra? Gente scema più gente scema si sono messi insieme e non so quale manager della squadra di baseball dei Chicago White Sox, insieme a Steve Dahl, questo DJ che aveva perso il lavoro in una radio perché era un DJ rock e avevano tolto il suo programma per far spazio a musica disco, si inventano questa cosa per cui propongono nel 1789, in occasione di una partita contro i Detroit Tigers, propongono a chiunque volesse di portare dei dischi di musica disco per fare un rogo dei dischi, sostanzialmente. Quindi è una rivolta, una sommossa, un rogo dei dischi disco, che viene chiamato, cioè è proprio un evento nella storia della musica chiamato Disco Demolition Night, che diventa una sommossa vera e propria, cioè diventa un riot, deve intervenire la polizia. La gente, comunque, quella sera effettivamente la partita è piena perché arriva un sacco di gente, persone bianche con questi dischi da bruciare. Certo. Il problema è che in realtà non sono dischi disco, sono dischi di persone nere, cioè abbastanza indiscriminata la cosa. Lì dentro ci sono vinili funk, ci sono vinili jazz, ci sono vinili disco, cioè un po' di tutto e di più. In realtà è una sommossa razzista. Quello che succede è che la disco, che stava diventando, come si diceva prima, sempre più mainstream, sempre più popolare, dopo questa situazione inizia a decadere. Non viene più suonata così tanto, è un po' come se letteralmente esplosa, boom, basta, cioè. Finisce lì. E da questa cosa le persone afrodiscendenti, le persone queer, che prima i produttori, i musicisti stanno iniziando a diventare mainstream, ritornano nell'underground. Sì. E quindi viene questo momento molto specifico, viene riconosciuto come il momento in cui dalla disco si inizia invece a produrre questo nuovo genere di musica house. Quindi è un evento simbolico che però nasce fondamentalmente da ragioni di razzializzazione, ma ragioni anche commerciali, cioè di conflitto di interesse. Ed è interessante poi vedere come si sviluppa questa cosa. Vedo che stai per mettere un brano. Yes, On and On di Jesse Saunders. Ok. Il quale, ecco, no. Grande citazione, ce l'eravamo preparato questa. Allora, questa è il culmine della nostra ricerca, cioè aver trovato una citazione di Jesse Saunders, che sentiremo tra poco, uno dei primi appunto produttori, che insomma è riconosciuto come uno dei... diciamo il produttore che ha fatto il primo disco. Insomma, in un'intervista dice che la house è proprio il rinasce dalle ceneri, come una fenice, dalle ceneri della disco, dalle ceneri di quell'evento tragico per la, appunto, per la complessità musicale che si stava creando, e pensiamo che questa idea di rinascita, di circolarità, di ricreazione, no? Come dicevamo, di riemergenza di questo suono sia fantastica. Quindi, e allora sentiamolo. Andiamo ad ascoltare On and On di Jesse Saunders, riconosciuta come prima traccia house. My soul, they make me lose control. It goes on and on. Just clapping to the beat, 'cause Jesse thinks it's neat. It goes on and on. Just say that it's the crew. Just say he makes you move. Say you must go on and on, goes on and on. Appunto, tornando su questa, su questo brano dell'83, possiamo un po' iniziare a ragionare un po' sui collegamenti, no, con la disco, e i suoni che sentite in questo momento sono proprio tipici del modo in cui la musica house veniva prodotta. Allora, innanzitutto On and On, che ha un testo palesemente, come dire, che dipinge una situazione di festa di cui non si vuole mai smettere, non si aspetta l'alba. È prodotto rallentando una traccia disco, quindi il suono che sentiamo è banalmente, abbiamo un primo elemento di questo assemblaggio che è la musica house. Poi questo suono, come dire, anche queste campanelle, appunto, che sentiamo, è il suono tipico dell'house di Chicago degli inizi. Perché? Perché veniva prodotta con dei campionatori, proprio come abbiamo visto con la musica di Detroit, dei campionatori che avevano dei preset, dei suoni preimpostati e che permettevano un grado di appunto modifica del suono, di interpolazione del suono non, ecco, estremo, per cui sono appunto delle combinazioni di suoni che vengono sia presi da brani musicali esistenti come la disco e queste batterie ripetitive. Una cosa molto interessante di questo momento è che inizia a definirsi, appunto, il termine house inizia a far parte proprio del vocabolario di chi la produceva, e nelle canzoni viene celebrato questo termine, che è molto interessante secondo me da una prospettiva anche musicale, perché non non avviene spesso che un termine venga subito abbracciato e venga subito appropriato da chi, no? E questa codifica poi è accompagnata anche da un altro termine che è Jack, che diventa poi il titolo di alcune canzoni come Jack the House, dove praticamente Jack è sia legato a un movimento corporeo sul dance floor, sia questo suono appunto di batteria ripetuto, fatto da una drum machine, quindi anche sincopato sui quattro quarti. No, volevo aggiungere sul termine house. Yes. Che anche, cioè, è interessante che è nato un po' appunto per la warehouse, il club, ma anche per il fatto che sostanzialmente oltre al warehouse, ancora nei primi anni a Chicago, non c'erano tanti altri club in cui andare a ballare. Quindi la gente prendeva i dischi di Frankie Knuckles, prendeva le produzioni che iniziavano a crearsi tra di loro e le ballava in casa, le ballava nei house parties. Quindi è anche da lì che inizia a prendere il nome, che all'inizio non si riferiva a un genere specifico, ma a qualsiasi cosa suonasse Frankie Knuckles in discoteca e alle cose che Jesse Saunders e sostanzialmente gli amici, le amiche iniziavano a produrre, e poi mano a mano si è andato a codificare il genere di cui Top ci sta raccontando. Prima che Laura appunto approfondisca una cosa molto bella che abbiamo notato ieri, è interessante, prima quando parlavi di Frankie Knuckles e i suoi set leggendari, ma anche di Ron Hardy, che popolano appunto questa prima generazione di produttori, ma DJ, sono due cose secondo me interessanti. La prima è che la musica diventa praticamente una forma di sperimentazione che parte come collage, perché Frankie Knuckles usava una macchina, uno strumento che permetteva di combinare i nastri. Quindi il mix che abbiamo sentito prima è una sorta di remix, di ricombinazione di un brano disco. Ma perché veniva fatta? Perché sul dance floor non potevi suonare la traccia intera con dei pezzi magari non ballabili, dovevi produrre per il dance floor una versione ballabile. Quindi per me è affascinante, cioè è il ballare che determina. Che determina, infatti quello che dicevamo ieri, che era molto interessante, che quello che cercavo di dire anche all'inizio è che è più il pubblico, cioè il ballare è il fine di questa cosa ed è quello che effettivamente crea questa musica e non viceversa, no? E trovo che in questo senso sia anche interessante come cambi la funzione del DJ, che non è più la persona frontale che ti mette, come siamo messi noi stasera, che ti mette i dischi per farti ballare, ma è quasi irrilevante. Cioè di solito sono nascosti, non si vedono, e appunto perché il fulcro di questo tipo di musica è più quello che poi succede sul dance floor che non effettivamente quello che produce chi la fa, no? Cioè il divismo dei DJ è arrivato molto dopo, ahimè è arrivato, ma ai tempi si andava a ballare e ci si guardava appunto sulla pista, appunto si stava assieme e il DJ era nascosto e operava queste macchine. Addirittura ci sono questi aneddoti di tecniche di Ron Hardy o di qualche altro appunto DJ che suonavano i dischi al contrario, creando anche questa sorta di scenario come abbiamo definito l'altra volta, di sonic di soundscape, no? Anche appunto completamente ribaltato, no? Upside down, perché finzione sonica, Sonic Fiction, sì. Esatto. Ne approfitto che hai citato Ron Hardy per mettere una traccia per me pazzesca, Sensation. E Ron Hardy è stato un DJ che ha sostituito Frankie Knuckles nel momento in cui Frankie Knuckles ha lasciato il warehouse, iniziato un proprio club chiamato Power Plant. Il warehouse si è chiamato Music Box. Quando il warehouse inizia a chiamarsi Music Box, arriva Ron Hardy come resident DJ, che fa una musica molto più picchiata, giusto? Come diresti? Molto più veloce, molto più picchiata, e inizia a crearsi un po' l'immaginario di club che abbiamo oggi in mente, come scatola nera, infatti Music Box, luci colorate intermittenti e gente che... come la febbre del sabato sera. Esatto, e gente che può fare quello che vuole. Però ancora di più, perché lì è proprio la disco, cioè c'è ancora più luce. Cioè è un po' come se prendiamo Berghain e Panorama Bar, di quello che è diventato poi a Berlino, no? Certo. C'è il Berghain che è ancora la disco, invece con il Music Box iniziamo... No, scusate, il Panorama Bar è un po' più allegrotto. E invece il Music Box inizia ad andare verso il Berghain, inizia ad andare verso quello che poi diventerà sì, un po' picchiato. Infatti da qui iniziano anche a nascere tanti sottogeneri di house, acid house, che magari perdono anche un po' quell'inizio tutto, certo, farfallino della queer disco, sì, e sì, diventare anche un po' più... Perché in questi anni, cioè, noi appunto ricostruiamo, ma ogni anno c'era una trasformazione del suono, al punto che già nell'87 abbiamo una sorta di, come dire, cioè si conclude la prima fase di definizione del suono house e poi inizia già a diventare qualcosa di, no, in costante evoluzione, questa costante modifica. Cioè, ieri abbiamo trovato anche quest'altra definizione di repertorio in movimento, che secondo me è molto, sì, molto fit. Azzeccata. Azzeccata. È anche proprio un grande collage. Anche per esempio prendevano tantissimo, beh, tantissimo magari esagerato, però suonavano anche tanta musica italiana, di quello che stava invece essendo l'Italo, certo, disco qua in Italia. Quindi c'era tutta la ricerca dei vari DJ che mettevano cose insieme, tagliavano, campionavano e creavano qualcosa di nuovo. Comunque, se non devi suonare qualche cosa, dico magari qualche nome appunto dei primi produttori, sono, vabbè, Farley, Jack Master Funk, appunto, che inizia già a introdurre elementi di dei sintetizzatori che producono un suono acido, e collegandoci con magari una puntata futura, è un po' l'origine a sua volta della acid house che arriverà poi in Inghilterra, nei rave. Ma vogliamo ascoltare un attimo, dedicare un momento d'ascolto a Love Can Turn Around? Yes! Perché direi che lo merita di fargli Jack Master. Now this is how it started, my dreams all broken hearted, and I want you, baby. We'll never be the same, cause you played those silly games, and yet I want you, girl. They say we were an item, my faults I try and hide them, did I need you? But when we get down to it, I just love the way you do it, and I love you. Love can't turn around. Per dare un'idea di come questo genere si evolve rapidamente, adesso ascoltiamo No Way Back di Adonis, che è, come dire, una versione senza le vocalità appunto funk e disco di questo brano, ma è proprio un dancefloor killer che ha una dimensione acida e quel suono proprio da Roland TR-808. Eccolo qua. Roland 808, che ricordiamo era una synth machine, sì, che iniziò a permettere più o meno a chiunque di produrre musica, elettronica, oggetto già importantissimo nella techno di Detroit, in cui letteralmente le persone si sono appropriate dei mezzi di produzione per creare la propria musica. Too far gone, ain't no way back. direi che può essere divertente, cioè che abbiamo iniziato a continuare con questo mix racconto di come arriviamo all'acid house, per farvi capire che proprio in pochissimi anni, perché eravamo negli anni 80, 82, 84, adesso siamo intorno all'86 e abbiamo i Future con Acid Tracks, sempre della stessa etichetta discografica Tracks, e ci rendiamo conto come in pochissimo tempo le sonorità cambiano radicalmente, diventando sempre più acide con questi synth, sempre sì, più miu, miu, però mantenendo sul dance floor quell'idea che è la comunità sì, a fare la musica. A proposito di Tracks Record, è interessante raccontare che appunto le prime versioni di questi dischi non erano per niente, come dire, non immaginiamoci un successo commerciale di questi, per gli artisti, perché questi singoli erano dei successi incredibili, ma venivano prodotti da etichette discografiche che avevano un atteggiamento appunto non particolarmente gratificante, cioè le prime stampe, si racconta, erano fatte, ma si trovano ancora in realtà in giro nei mercati di dischi o su Discogs. Le prime stampe di queste produzioni erano veramente fatte su vinili sottili, quindi poco di bassa qualità rispetto a produzioni più complesse, e in qualche modo non restituivano tutto il ritorno economico ai produttori, che in questa fase iniziale non si trovavano appunto. Ecco, diciamo che i vantaggi di questo nuovo fenomeno musicale vengono subito appropriati dall'industria musicale, che è senza scrupoli anche in questo contesto, ma vedremo che proprio nascono etichette più piccole proprio per contrastare questa dinamica, quindi si sviluppa tutto molto e tuttora resistono ed esistono. Vorrei fare un ultimo commento su quello che la musica house e quello che sta succedendo ha, sull'impatto che ha nella storia della musica, poi abbiamo analisi e commenti finali, che proprio ieri mentre preparavamo questa puntata ci siamo dette, abbiamo riflettuto sul fatto che cambia anche l'idea di cosa vuol dire essere un musicista, forse per la prima volta. Ascoltando le interviste di quelli che adesso sono DJ famosissimi, sono i musicisti che appunto hanno cambiato la storia della musica, molto spesso dicono: noi non eravamo musicisti, noi non avevamo preparazione musicale, noi creavamo situe per ballare. Ed è molto interessante perché adesso nessuno si sognerebbe di dire fare quella cosa lì non vuol dire essere un musicista, perché è cambiato, non si pensa più alla composizione, al compositore o alla compositrice. Certo. Il fatto di la musica, ed è quello di cui parliamo sempre costantemente a Club Chimera, che la musica ha tante sfaccettature, c'è la sfaccettatura dedicata solo all'orecchio, al piacere di sentire un'armonia dopo l'altra, e c'è la musica dedicata, come si diceva, al far ballare le persone. Quindi se per far ballare le persone devo prendere delle forbici, tagliare dei nastri e metterli insieme, quello fa di me un musicista. Sì. È una delle prime volte in cui inizia a... E poi quei nastri circolavano all'inizio in maniera assolutamente underground, cioè non li trovavi nei negozi di dischi. Ma poi legato anche a questo discorso del far ballare, penso che potrebbe essere interessante anche commentare come cambia anche l'idea del corpo, no? Nella musica, nella musica house, quindi appunto con l'idea che sia il ballo il centro un po' del, anche dello stimolo stesso a creare la musica, come cambia l'idea di corpo e di tempo all'interno della musica house. Io su questo mi riaggancio, come avevo detto inizio puntata, con Cruising Utopia di José Esteban Muñoz, che parla di disco a New York e dopo, negli anni 90, però parla di musica queer e fa una riflessione che secondo me è assolutamente pertinente. Lui parla di come la soggettività queer va a costruire una alternativa, un pensiero altro, un pensiero diverso. Tra le varie analisi che fa, analizza quello del gesto queer e specialmente come questo gesto si presenta sulla pista da ballo, come si leggeva prima, che va a analizzare la pista come un luogo in cui ci si incontra e si diventa le une diventano le altre. Analizzando il gesto queer, quindi il corpo della persona queer, va a vedere in questo gesto come un qualcosa che è allo stesso tempo materiale ed effimero, come un qualcosa che si tramanda, che fa un po' da specchio tra una persona e l'altra persona, senza andare a costruire una cronologia, quella del tempo lineare, della storia, del tempo del progresso, un po' il tempo che ci hanno inculcato in una mentalità anche un po' capitalista, l'idea di andare a costruire, a storicizzare tutto. Ma secondo Muñoz il gesto queer diventa più una traccia, un qualcosa che c'è e non c'è, ma che si tramanda di persona in persona, e lo si fa attraverso il corpo. Quindi è questo corpo che si va a creare in comune sulla pista da ballo e anche tramandare di generazione in generazione. I gesti, letteralmente i gesti queer nelle comunità di oggi vengono da lì, vengono da quelle comunità, da quelle case che si stavano andando a creare a Chicago, a New York, anche in Italia, anche in Europa, sì, proprio in quegli anni. E quindi è proprio una corporeità che si è creata in quel momento e che è stata tramandata arrivando fino a noi in modo effimero, quindi allo stesso tempo materiale, ma anche poetico. Impercettibile, sì, esatto. Sì. E a proposito di corpo, appunto, mi vengono in mente due brani che volevo portare, concentrandoci un po' sul testo, quello che dicono, che sono due brani di Frankie Knuckles con Jamie Principle, che hanno una storia, per me hanno, non so, ogni volta che li ascolto hanno producono un effetto, una risonanza affettiva fortissima. Il primo, Your Love, è un po' quello che diciamo, abbiamo detto, cioè è praticamente un poema che Jamie Principle dedica a una donna che incontra e di cui si innamora nel contesto appunto del club, immagino, e però deve fare i conti con di essere cresciuto in un contesto particolarmente religioso che non attribuisce, no, al corpo il diritto al piacere. E quindi nella canzone c'è questa sorta di innalzare l'amore non come qualcosa di idealizzato, no, al, come dire, dantesco, ma qualcosa di estremamente fisico, corporeo, esatto, e sensuale. L'altro brano che invece collega la dimensione corporea e affettiva alla dimensione politica è Baby Wants to Ride, che ha una storia molto più anche oscura in un certo senso, dove c'è questo dialogo. All'inizio parte quasi come un sermone religioso e termina con una praticamente una critica all'America, una critica al riarmo dell'America, una critica alla politica di Reagan dei tempi. E c'è questa frase, secondo me, vabbè, oltre a un certo punto si sentono proprio applausi, si sentono rumori di clap, di applausi, e dice clap your hands for this bullshit land, e alla fine dice it's hard to ride when you live in a fascist dream, cioè è difficile godere quando si vive in un contesto, si vive nel fascismo, e secondo me è più attuale che mai. Più attuale, ecco, che sì, mai, esatto. Cioè, ed è meraviglioso come questo brano unisca tutto questo, cioè, e sia iconico. Adesso sentiamo Your Love. Sì, ho iniziato nel frattempo, direi di ascoltarle tutte e due integralmente in qualche modo. E, comunque sì, ultimissimo commentino, c'è anche l'idea che appunto vivere in uno stato fascista e in una società fascista, qua erano persone che molto spesso erano marginalizzate da due punti di vista, erano persone afrodiscendenti, comunque non bianche, ed erano persone prive, principalmente persone queer, e quindi anche un altro motivo per cui è nato l'underground della house è perché anche c'erano i locali gay bianchi in cui però le persone bianche e le persone non bianche queer non potevano entrare, e quindi è proprio questo proliferare di resistenza di nuovo, quella resistenza che a Detroit negli stessi anni si esprimeva attraverso il pensiero utopico e invece a Chicago si esprimeva attraverso l'amore, il corpo, lo stare insieme e il fare comunità. Ascoltavamo questo brano, stavamo appunto dicendo tra di noi come è emozionante, io ho la pelle d'oca a risentire questi brani, perché sono anni in cui comunque i membri di questa comunità, molte ci hanno lasciati per l'epidemia di AIDS, che ricordiamo in America, come d'altronde in altri luoghi, insomma queste persone non avevano accesso alle cure, non c'erano... erano momenti veramente durissimi, per cui credo che la bellezza anche di questo episodio sia proprio nel restituire, no, un po' voce a queste storie, condividerle, farle risuonare, portare avanti la legacy della house music, anche a queste discriminazioni, no? Cioè, perché poi di fatto anche l'AIDS all'inizio, cioè chi lo aveva era appunto un ennesimo emarginato, un'emarginata, per cui c'è sempre appunto questo fattore della discriminazione che è molto forte, di come invece questa musica, forse questa corrente, questo movimento che poi si crea anche intorno a questa musica, risuoni come dare voce e forza a quella parte di società che non veniva vista come dei reietti, delle reiette, dei... Certo. No? Niente, quindi... Rendendo onore, emozionati, sì, emozionati, rendendo onore a queste persone, a queste comunità, che anche io, una cosa che mi è capitato di pensare nella vita, qui sto un po' risolvendo negli ultimi anni da persona queer, è anche un po' la fatica di trovare legami con generazioni queer precedenti, un po' perché la storiografia la cancellate, un po' anche perché mancano magari quei legami di sangue. con quest'idea, sempre forse ritorniamo a quell'idea del progresso per cui la discendenza può essere solo una discendenza di sangue. E invece no, come si diceva prima, può anche essere una discendenza allo stesso tempo materiale ma effimera, fatta di tracce, fatta di canzoni, fatta di ricordi, fatta di gesti che arrivano fino a noi e fatta di resistenza al fascismo. Esatto. Con cui concludiamo passando da Your Love, dall'amore, a Baby Wants to Ride, alla politica sempre innamorata. Quindi tornando anche un po' forse a come abbiamo iniziato la puntata di sì. La techno era il fratello marxista, esatto. Laus invece la sorella queer fatta di ecstasy, pure lei abbastanza marxista a modo suo. Quindi niente, concludiamo con Baby Wants to Ride di Frankie Knuckles e Jamie Principle. To sleep, I pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Jamie, it's time to tell my people the truth. It's time to tell them the revelation of my second coming. Have them understand, relate. Now ride me, baby. Baby. is baby small. You know what turns you on. Ride me, baby, ride. Ride me long. Baby. Oh, baby. Baby. Oh. Why don't you go for me? I wanna fuck you. I'm not trying to be nasty. All night long. At hand, prepare for the Revelation 7, the final conflict. I love you, yes I do. I believe. I believe. I believe. Do you believe? I believe. I believe. I believe. To them who understand, let them hear the words I speak. Prepare for the second revelation. I pray. The final conflict. To you. It's near. Ride me, baby. I love you. I do. I just get confused by the things that I do. Baby. I'm so complex. Future, behold, it's near. I love it. Alright, South Africa, let my people go. South Africa, let my people go. Remember Ethiopia, feed the poor. I love you, baby. We go. Na na na na na na, you can't hurt me. Na na na na na na, you can't hurt me. Jesse, hear the voice of God. I hate thieves. No more. America. Clap your hands over this bullshit land. I thought we loved each other here. It seems to be a lie. Aren't you free? No. Do you believe? I believe sometimes. Then why do we fight? Why do know. We hate? I don't Ronnie, know. Wake up. As your president. See the light. Ronnie wants to ride me because he thinks he's king. But it's hard to ride, baby, when you're living in a fascist dream. You say it. Ronnie wants to ride me because he thinks he's king. But it's hard to ride, baby, when you're living in a fascist dream. Everybody, make love, don't fight. I wanna fuck tonight. Everybody, make love, don't fight. I wanna save a life. Make love, don't fight. I wanna fuck tonight. We don't want the draft. We don't want to lose our lives. Say it. I'm not dying over any bullshit. No way, baby. Baby, I just wanna be free.